America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. Devo dire, non è che abbiamo molte notizie oggi sul fronte politico qui a Washington. I repubblicani stanno un po' leccando le ferite, cercano di capire che strategia si potrà adottare in futuro, vogliono puntare a una riforma fiscale rapida, ma, come dire, le cose non sono automatiche. C'è qualche cosa negli equilibri politici che si è spezzato. I democratici cercano di riguadagnare terreno. Stiamo aspettando il nuovo ordine esecutivo del presidente Trump, che andrà a cancellare tutti i progressi che aveva compiuto Barack Obama sul fronte dell'ambiente. Dunque oggi vorrei cambiare timbro, visto che non abbiamo grandi notizie, e vorrei parlarvi di un grande italiano che ha preso un biglietto di sola andata. In questo caso, beh, è una puntata di sola andata, come dire, postuma. The New York Philharmonic was broadcast every Sunday throughout the nation. Toscanini conducting. There was no television, of course, in those days. And that was the great cultural event that fashioned the musical audiences of that time in the whole of the United States. Beh, l'avrete capito, il personaggio di cui vi parlerò oggi è Arturo Toscanini. Anche in America si stanno celebrando i 150 anni di Arturo Toscanini. Qui a Washington, al Library of Congress, si terrà un concerto. 17 musicisti dell'Orchestra della Camera della Scala hanno fatto una performance. L'iniziativa, tra l'altro, è stata promossa da Salini Impregilo e Lane. Salini Impregilo è una grande azienda che fa opere di grandi costruzioni un po' dappertutto nel mondo e con una scommessa, devo dire, con una certa dose di visione, aveva comprato un'azienda americana qualche tempo fa che si chiama Lane per puntare sugli investimenti infrastrutturali. Proprio ieri si è tenuto un piccolo rinfresco nella residenza dell'ambasciatore proprio per celebrare Toscanini, per celebrare questa azienda italiana che ha reso possibile questa ricorrenza americana di questo grande musicista italiano. Ebbene, l'ambasciatore Armando Varricchio ci ha dato notizia che il presidente del Consiglio Gentiloni sarà in America per un incontro con Donald Trump il 20 di aprile. Ecco, questa è una notizia importante anche perché l'Italia ospita il G7. Sentiamo ieri sera a Washington nella Library of Congress in onore di Toscanini. Ecco, la storia di Toscanini è una storia molto bella. Vi dicevo, Toscanini è un personaggio che è stato poi amato moltissimo dagli americani. Era arrivato qui a un certo punto negli anni 30, aveva diretto la New York Filarmonica, poi era rientrato in Italia, era antifascista, dunque si è trovato in difficoltà. Alla fine ha deciso di prendere appunto un biglietto di sola andata per venire in America. È scappato a tutti gli effetti. E quindi arriva Toscanini nel 1938, che tra l'altro è l'anno, per pura coincidenza, in cui in Italia partono le leggi razziali, e prende appunto questo biglietto di sola andata. L'accoglienza è stata straordinaria. A un certo punto Toscanini viene ingaggiato per suonare con l'orchestra della NBC e fare delle trasmissioni radiofoniche. E lì diventa una celebrità. Sentiamo un breve spezzone di un concerto di allora. Ecco, insomma, grande festa musicale, l'abbiamo vista sotto ogni punto di vista, ma io ho qui con me ai microfoni di America 24 il biografo, il vero grande biografo di Arturo Toscanini, Harvey Sachs. Buongiorno Harvey. Buongiorno. Allora, Harvey, raccontiamo Toscanini, perché era un uomo tempestoso, era un uomo... Come andava d'accordo con gli americani? Cos'è stato questo suo biglietto di solo andata? Visto che non ce lo racconta lui, ce lo racconti lei. Ma Toscanini ha sempre lavorato molto bene qui in America perché ha trovato condizioni di lavoro che gli soddisfacevano. Prima della Prima Guerra Mondiale diresse 7 stagioni al Metropolitan di New York con alcuni tra i più grandi cantanti del mondo, con un'orchestra di prim'ordine. Era molto contento del suo lavoro qui. Poi è tornato in Italia durante la Prima Guerra e poi dopo ha ripreso in mano la Scala, dove era già stato in 2 puntate precedenti. Comunque, fin dal 1926, Toscanini comincia a tornare ogni anno a New York per dirigere dei concerti della Philharmonic di New York. E poi, nel 1936, a 69 anni, pensa di andare praticamente in pensione, ma invece un anno dopo crearono per lui la NBC Symphony Orchestra. Era un'orchestra radiofonica che lui poi a 70 anni comincia a dirigere e dirige fino all'età di 87 anni. Quindi un successo strepitoso e quindi contribuì a portare la passione anche forse per un certo modo di fare musica all'italiana. Sì, ma poi era anche un pioniere, possiamo dire, perché aveva capito che la radio poteva aiutare per la disseminazione della musica, della grande musica, anche nelle case più fuori dal mondo. In the middle of nowhere, come si dice, nel lontano Midwest. Sì. Infatti, già nel 1934, quando dirigeva la filarmonica, calcolavano che i suoi concerti furono ascoltati da 9 milioni di americani ogni settimana, che erano allora il 7% dell'intera popolazione del paese. Beh, un record strepitoso. Qual era un difetto di Toscanini? Beh, era molto iracondo, aveva durante le prove, quando le cose non andavano come voleva, perdeva le staffe, bestemmiava, eccetera. Però qui non c'erano però le cause che facevano, come si fa adesso, diceva questo abuse. No, perché tanto gli orchestrali lo adoravano, anche perché era molto generoso e fuori dalla sala di concerto, dal teatro, era molto avvicinabile e simpatico. Qualità, una grande qualità di Toscanini. L'onestà, l'umiltà verso il suo lavoro, queste erano forse le qualità più importanti e naturalmente tutto basato su un talento strepitoso. Ecco, un messaggio che ci arriva da Toscanini su cui oggi dovremmo riflettere. Stiamo passando dei momenti, come dire, difficili. Alcuni dicono sembra che stiamo facendo un passo indietro. Se dobbiamo pensare a un messaggio di ispirazione da Toscanini, che cosa dice? La democrazia è una cosa molto fragile. Lui ha cercato di difenderla, anche se era un po' autoritario nel suo lavoro. Come persona era un vero democratico e questo forse è il messaggio che funzionerebbe meglio oggi come oggi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo sempre con noi Harvey Sachs. Harvey, ma che canzone avrebbe scelto Toscanini se l'avessimo chiesta a lui? La chiediamo a lei, perché sono sicuro che quello che sceglie lei forse è quello che avrebbe scelto Toscanini. Ma lui non conosceva bene la musica pop dell'epoca, però stimava molto Gershwin. E allora, non lo so, scegliamo Summertime del Porgy and Bess. Canzone appropriatissima, perché qui fa ancora freddo, ma speriamo che l'estate arrivi molto presto. Speriamo. Summertime da Porgy and Bess. Che è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!